sai cosa ti aspetti, eh? Io m'aspetto che l'apprezzi, non esistono compromessi messi da parte da una società che uccide testimoni senza ragioni. Non si traggono conclusioni né nomi, contano i problemi che ti poni e come te li poni. Se poi te li risolvi dal mio obiettivo, non mi distogli. Lo sguardo affatto, non faccio un patto, ma faccio il pazzo, così son fatto. Nemici li attacco, con rime attraggo, ti indico la via come un raggio. Di sole smog è il mio nome, fino all'estremo resisto, insisto, l'istinto che mi guida, rap per la vita, una gioia, una stima, una rima. Mi danno la forza, vento che non mi sposta via, seguo la scia, non vado in avaria, sto con i miei fra a fargli compagnia e seguo il trial, sono il più real. Esercito una pressione, come la metti mo, cambio le persone attraverso una canzone, non è roba da poco, fino all'estremo lo spingeti da fuoco, colpi che sferro. Fanno assegno con ingegno, la preda la inseguo, più rap vero è ciò che chiedo, mi spiego, cambio di genere in negativo, non sono un sensitivo ma lo percepisco, mi esprimo pensando ciò che sento davvero e non ciò che la gente chiede dall'esterno. Se non trovi un nesso logico a tutto questo, vuol dire che in te ancora non faccio centro.